piace l'amore, lo scrivo e lo dipingo, il mio infinito istinto mi fa partire il cuore, mi piace da morire, io ne sono dipendente. Il sentimento è voce e canta anche di notte, è nettare di vita, mi crea sudorazione, non posso farne a meno, io ne sono dipendente. Faccio un sogno lungo tutta la notte, i piedi sulla strada come navi senza rotte. Un giorno piangi, un giorno ridi, un giorno muori, un giorno vivi. Un giorno perdi, un giorno vinci, uno come tanti. Le paure, le preghiere, noi guardiamo avanti. Anche se restiamo dove, la pace e l'amore sono soltanto due parole. Sono uno come tanti, ho solo più nemici e più amanti. È la croce dei cantanti. Schiavo dell'amore, schiavo delle emozioni, ma libero perché odio tutti gli altri padroni. E cambio pensieri, cambio desideri, fra oggi è così finché oggi è già ieri. Ora acceso, ora spento, non è la ragione ma il sentimento. E l'assento è la guerra che ho dentro. È l'amore che mi sta rendendo schiavo. Ora viaggiamo anche se siamo fermi immobili, e puoi sentirmi anche a distanza di chilometri. Ehi, sembra che ho un cuore d'acciaio, il contrario di tutto, ma dentro sono tutto il contrario. Uno come tanti, fra questo quello che sono, con i guai nella testa, la rabbia e il perdono. Ubbidire sempre al vero intatto amore è forma di condanna, ma è riverenza al cielo. È un viaggio sempre aperto, ma al sole non si arriva, al sole non si arriva.